cartellone di Elisabetta Fiorito. Stamattina, appena sveglio, prima di addormentarmi di nuovo per affrontare l'ennesima giornata da sveglio, ho visto, con i miei santi occhi miracolosi, un barbone, appena scollato dal marciapiede, leggere il giornale. Scusa, ma se sei un barbone, hai scelto di dissociarti. Cosa te ne frega te di leggere le notizie? Questo lo vorrei sapere. E invece tutto serafico stava appoggiato ad una colonnina inutile di quell'inutile terrazzo marciapiede che non si capisce, visto che è così inutile, cosa lo hanno mattonato a fare. Le ringhiere, le colonnine, perché? Lui, dicevo, serafico dicevo, al sole autunnale di un già inoltrato inverno sulla carta, leggeva attento più di un giornale. Confrontava. Nel frattempo la cicciona puzzolente più lercia di lui esce dalla croccata tenda grotta zaino in spalla ed anche il letterato si prepara zaino in spalla non senza prima aver sistemato la maglietta arrotolata su, srotolandola giù sulla pancia e aver piegato per benino i giornali. Forse lo aspettano importanti decisioni al lavoro, mi dico con debole ironia da due soldi, infatti non sorrido e non mi arricchisco, ma non capisco come sia possibile non tanto dissociarsi, che in realtà magari è un atto di lucido coraggio, quanto non lavarsi. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Cartellone. Quello che avete sentito è uno dei monologhi, un brano di un monologo di Dignità Autonome di Prostituzione che ritorna al Teatro Quirino di Roma dal 27 al 30 aprile. E a proposito, abbiamo intervistato l'ideatore, il progetto teatrale infatti è di Luciano Melchionna ed Elisabetta Cianchini e la regia è di Luciano Melchionna, che è appunto l'ideatore di questo spettacolo e che è anche in scena con una sua regia al Teatro Franco Parenti di Milano con Persone naturali e strafottenti sul palco Vladimir Luxuria e Daniele Russo. E allora andiamo a curiosare su che cosa accade e che cosa accadrà il 27 aprile al Teatro Quirino di Roma. Io lavoro in macchina, vengo con mia macchina di fronte al teatro e racconto mia storia. Allora, per farti capire di dove vengo da Cerni, vicino di Bratislava. Nessuno conosce mia terra qui a Roma. Dicono tutti, ah, sei rumena, non c'entra niente, altra cultura, altro modo di parlare. Allora, io sono venuta qui con i miei genitori, però per farti capire vengo di campagna, le campagne tutto diverso, però c'era mia nonna che mi abbracciava forte forte, senti tesoro, faceva caffè nero nero, come petrolio, nero nero, buono, bollente. Mi diceva sempre quando ero piccola, Ania, devi bere quello caffè. Io dicevo, sono piccola, non posso bere quello caffè. E lei diceva, no, ti fa bene. Allora io bevevo quello caffè. Sai che facevo? Quando dovevo saltare, sai, salta corda quando lavori, quando giochi con bambini fuori. A forza di bere quello caffè, quando saltavo sembravo canguro impazzito. Allora ho capito che faceva venire tachicardia. Allora non prendevo quello caffè, facevo finta. Prendevo tazzina, odoravo e poi buttavo a pianta di nonna. Quella pianta, a forza di dare quello caffè, è diventata viola rinsacchita. Povera nonna, mai detto verità. Ma Ania, adesso che mestiere fa lei? Perché gira in macchina? Allora, il mio mestiere più antico di mondo, conosci bene? La verità è un'altra. Io mi chiamo Lucilla, vengo da Ciglia, altro che Slovacchia. Il problema è che quando si fermano gli uomini italiani, specialmente i romani, se faccio finta di essere Ania di Slovacchia che parla tutta così, si aprono, mi vogliono sposare, mi danno un sacco di soldi, mi ricoprono di coccole. E invece quando si trovano di fronte una romana scappano, hanno paura del giudizio, chi lo sa. Luciano, perché questo spettacolo? Intanto quanti attori ci sono? Perché è un'infinità, si vanno a vedere gli attori nei loro monologhi, negli spazi più incredibili del teatro, i camerini, i sottoscala. Sì, infatti, allora perché questo spettacolo? Assolutamente necessario nel momento in cui gli attori si prostituiscono per strada. Io e Elisabetta ci siamo guardati e abbiamo detto, ma diamogli una casa chiusa e protetta, scusa. E ecco qua che ne stiamo proteggendo, ormai sono arrivato a un centinaio di attori. Questa edizione al Quirino vedrà 42-43 prostituti e prostitute, comprensivo anche di maîtresse, e sarà un'edizione veramente speciale, un vero evento. Preparatevi perché questa volta sfioriamo anche il circo, tutte le forme d'arte. È importantissimo proteggerli, questi artisti. Dignità Autonome di Prostituzione, tutti quanti magari pensiamo, andiamo a vedere uno spettacolo che parla di entrenese, eccetera. Invece poi ci sono dei monologhi molto molto drammatici, addirittura ci sono dei monologhi di Dostoevskij. Insomma, quindi ci compriamo il nostro piccolo spazio, ma in realtà poi i monologhi sono un po' variegati. Guarda, al di là del format, poi lo spettacolo in sé l'ho strutturato con una parte appunto circense, molto giocosa, molto divertente, briosa, brillante, che in qualche modo fa vivere un'atmosfera da isola felice, da isola che non c'è al pubblico. Dopodiché il pubblico sceglie. E si sceglie il proprio prostituto, la propria prostituta paga ovviamente con i dollarini, cioè il denaro interno che acquista la cassa e che acquista poi dalle maîtresse come ricariche, ed entra dentro queste stanze. Ecco, le stanze ho voluto che fossero i cuori di Dignità Autonoma di Prostituzione, e quindi i cuori pulsano, i cuori esplodono, i cuori tirano anche qualche sberla e qualche pugnetto, affinché si continui a pensare, a riflettere, ad emozionarsi, al di là della magia e del sogno che comunque stiamo ripristinando in questo spettacolo, perché siamo stanchi del teatro punitivo, che allontana il pubblico. Noi abbiamo tantissimo pubblico e siamo fieri e felici, perché i nostri clienti sono ormai abituali, ce ne abbiamo sempre di nuovi e sono felici, signori. E i nostri prostituti attori sono felici. E io e Elisabetta siamo veramente felici al di là di tutto, perché il teatro è questo anche, no? È magia, sogno, è gioco, è approfondimento, è cultura, è apertura mentale. Vi giuro che tutto questo accade meravigliosamente e magicamente ogni sera. Elisabetta, questo format studiato insieme a Luciano, che sta avendo un tantissimo successo, come lui ha parlato di teatro punitivo, che qual è allora il vostro tipo di teatro? Abbiamo assolutamente buttato giù non solo la quarta parete, ma spesso Luciano Melchionna Docet, lui è stato capace al Teatro Quirino di buttare giù addirittura le poltroncine rosse, cioè le ha proprio diverte, le ha levate per utilizzare appunto lo spazio teatrale, quello più canonico, in maniera altra, in una maniera che appunto stiamo vedendo con grande felicità, come diceva Luciano, in una maniera che sta avvicinando le persone al teatro, dai più giovani ai più grandi, e questo è importantissimo. Io dico sempre, l'abbiamo fatto soprattutto per un discorso di meritocrazia, perché stiamo dimostrando che fondi o non fondi, e qui non tocco l'argomento perché si dovrebbe parlare per ore, fondi o non fondi, se c'è una qualità di teatro molto alta, se la caratura qualitativa è alta, la gente ha voglia di vedere del teatro di cuore, di gran cuore. Mi raccomando, al Quirino dal 27 al 30, ore 20 e 45, per la grandissima, meravigliosa cerimonia di apertura del bordello. Mi viene in mente Cuba, dove per due soldi affitti intere deliziose casette, da pronunciare in tono deliziosamente affettato, perché non ce n'è un altro di tono per dire una simile scemenza anacquata, che comunque va detta velocemente dopo un brevissimo e contrito cenno alla condizione di quella povera gente che però, e qui si glissa impicchiata, è più ricca di noi, perché sorride, perché vive in una dimensione più naturale, fatta di valori semplici, tipo: se vuoi studiare ti cerchi un camion, anzi più di uno, e cerchi di arrivare dall'altra parte dell'isola cercando poi di tornare indietro, e non pensare di poter uscire fuori per studiare o semplicemente per conoscere il mondo in completa libertà, che non basta mai la libertà, non basta mai, e infatti costa, e le scarpe da ginnastica si pagano in dollari, e se pensi che un'infermiera ne guadagna 6 al mese di dollari, un'infermiera che si fa un culo come la capanna in cui è costretta a vivere con marito e figli, tutti in cerca di lavoro, capisci bene che nell'infermiera, nel marito, nei figli, potranno avere delle scarpe da ginnastica da 45 dollari minimo, che ti ribolle il sangue. Ma non puoi comprare le scarpe da ginnastica a tutta Cuba, puoi al massimo affittare più deliziose casette che puoi, regalare tutto quello che hai e tornartene a casa, perché porca troia, senza computer come lavoro, senza casa in centro come vivo? Che poi è tutto rapportato, ma me lo dico tanto per dire, perché in fondo non lo voglio sapere. Cartellone. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe, che in realtà è una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre del 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna del 1974. Io so i nomi del vertice che ha manovrato dunque sia i vecchi fascisti ideatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia, infine, gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi di coloro che fra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali, a giovani neofascisti, anzi, neonazisti, a criminali comuni, forse per sempre senza nome. L'Italia delle stragi, l'Italia che speriamo aver dimenticato, una stagione, quella lì che portò l'Italia dal dopoguerra fino agli anni di piombo, piena purtroppo di vittime e di sangue, ma soprattutto una stagione che inizia con una storia particolare, una vicenda ancora oscura, quella di Enrico Mattei, il fondatore dell'ENI. E al Piccolo Teatro di Milano è in scena fino al 30 aprile Cane Nero di Laura Curino, che parla proprio della storia del fondatore dell'ENI. La regia è di Gabriele Vacis. Buongiorno Gabriele. Buongiorno a voi. Allora, qual è l'interesse verso questa figura? La figura di Enrico Mattei è un po' una figura fondante. Nel 1962 l'aereo su cui volava cade e per molti anni si è sostenuto che si trattava di un incidente. Ovviamente poi si è verificato che si è trattato di un attentato e Fanfani diceva che forse l'attentato a Mattei è stato il primo atto terroristico in Italia. Mattei aveva un'idea di sviluppo dell'Italia completamente diversa da quella che poi abbiamo adottato, ecco, l'Italia ha adottato. Allora andare un po' alle radici della storia, andare un po' a cercare di capire come poteva andare e non è andata, potrebbe sembrare un esercizio così un po' inutile, ma io credo che invece sia molto utile perché poteva andare in un modo diverso. Ecco, Mattei immaginava un'Italia completamente diversa, un'Italia per esempio non dipendente soprattutto dalle grandi compagnie petrolifere americane, dalle sette sorelle, quelle che lui chiamava le sette sorelle. Immaginava un'Italia che si occupava di creare lavoro nei paesi del terzo mondo produttori di petrolio, e voi capite che di questi tempi in cui si dice sarebbe molto, molto utile che gli extracomunitari se ne stassero a casa loro, bisognava costruire le condizioni a partire probabilmente dagli anni 50 come Mattei stava facendo, ma non si è fatto così. Laura Curino racconta quindi questa vicenda in che ruolo, in che veste? Abbiamo inventato un personaggio che è per certi versi è realmente esistito, una matta, una folle di queste che sanno tutto. Qui dove noi abitiamo, sia io che Laura Curino, abitiamo in una città della cintura torinese che si chiama Settimo Torinese, e qualche anno fa girava una di queste pazzerelle che parlano continuamente e di cui ti liberi con una sigaretta o offrendo un caffè, ecco. Però se fai attenzione a che cosa dicono, magari dicono delle cose interessanti. Ecco, questa pazzerella, questa fou savant, come dicono i francesi, questa pazza sapiente, sapeva tutto, parlava continuamente di Enrico Mattei e sapeva tutto su Enrico Mattei. Naturalmente nessuno l'ascoltava, però lei diceva delle cose che col tempo si sono rivelate appunto delle verità, come appunto il fatto che Mattei non sia morto per un incidente, ma sia stato ucciso. Allora, ricordiamo, al Piccolo Teatro di Milano, in scena fino al 30 aprile, Cane Nero di Laura Curino, come abbiamo sentito, regia di Gabriele Vacis, racconta la storia di Enrico Mattei, il fondatore dell'ENI, l'uomo che voleva un'Italia forse più libera dallo strapotere statunitense e che ha pagato le sue idee con la vita. Grazie Gabriele. Grazie a voi. Ero tutta felice di sentire e di vedere gli uccelli, gli scoiattoli e anche solo le foglie degli alberi che si muovevano nel vento, che brillavano al sole. Era di primavera. Passeggiavo stupefatta da tutte queste belle cose della natura quando... Orrore! Un uomo apparve davanti a me, sotto una quercia, con un fucile in spalla. Non era che un guardiacaccia, certo, ma mi fece paura. Tanto più che aveva i capelli biondi, la barba e gli occhi blu. Agatha Christoph sbarca a Trastevere, possiamo dire così, con la chiave dell'ascensore, fino al 2 maggio in scena qui al Teatro Trastevere con Francesca Palmas e regia di Massimo Palazzini. Allora, Francesca Palmas con un monologo piuttosto difficile ci si confronta, no? A un certo punto questa donna che pian piano scopre che il marito la sta tramutando in un altro essere. Sì, praticamente sì. Il marito per gelosia, perché un giorno la donna nella foresta incontra un guardiacaccia e si infatua di questa persona. Nella sua ingenuità racconta tutto al marito e il marito la chiude dentro una stanza e butta via la chiave. Questo è. E con l'aiuto di un amico medico le leverà l'uso delle gambe, dell'udito e della vista e vorrà portarle via pure la voce, ma alla voce lei si ribella. A quel punto lei si ribella in un crescendo un po' surreale, come tipico poi della Christoph. Sì. Però a un certo punto quello che chiedo a proprio a Francesca Palmas, quanto di questo racconto scritto in un'epoca passata, prima del 1956 in Ungheria, è ancora attuale nell'Italia di oggi? Beh, credo che sia molto attuale. Basta aprire il giornale e si leggono tutti i giorni storie di questo tipo. Quindi trovo sia molto attuale. Dal punto di vista drammatico, questa donna continua poi ad amare quest'uomo malgrado tutto, no? Poi non sa nemmeno se lo ama, se lo odia, perché alla fine è l'unica cosa che le è rimasto. Sì, perché io fondamentalmente penso che lei sia pura, molto ingenua, quindi nella sua purezza continua a rimanere accanto al marito. Un'altra l'avrebbe ucciso prima. Massimo Palazzini, che cosa vuol dire dirigere un'attrice in un monologo scritto da un'altra donna e poi con dei temi così accusatori nei confronti del genere maschile? Sì, questo è l'elemento che più, diciamo, mi ha interessato. Dirigere una donna, dirigere Francesca Palmas è una impresa. Noi abbiamo provato per 3 mesi. Il testo ogni giorno per noi, per me l'ho approfondito, riserva ogni sera delle sorprese, perché è un testo così profondo, con queste due favole buie che si intersecano, che vanno l'una dentro l'altra, che si rispondono. L'operazione che ho desiderato fare, naturalmente, perché mi sembrava, senza togliere nulla alla Christoph, naturalmente perché anche lei penso che non pensasse semplicemente al rapporto marito e moglie, vittima carnefice, ma di allargare il discorso. Non ricordiamoci che la Christoph è scappata dall'Ungheria nel 1956 dopo l'invasione dei carri armati russi. E quindi lei ha tutta questa sofferenza che se la porta dietro e se la porterà sempre dietro. Quindi l'uccisione del marito, sì, è l'uccisione del marito certamente, ma il marito come tiranno, come colui che la vuole sempre comunque sottomettere, che in questo testo, soprattutto che abbiamo eliminato diciamo l'elemento naturalistico della sedia a rotelle, qui non c'è la sedia a rotelle appunto, ma c'è un girello molto molto molto colorato con dei sonagli eccetera, quindi è tutto apparentemente allegro, però questa donna con l'andare del tempo cosa perde? Perde la sua freschezza e quindi questo girello diventa di volta in volta diciamo il ventre materno, il luogo dove si rinchiude, il luogo di protezione. Io l'ho definito come il teatro, definisco un bunker antiumano, perché il marito non è solo il marito, ma è l'uomo, tant'è vero che qua la figura del marito e del medico, diciamo carnalmente, non ci sono, ma ci sono i pupazzi, due pupazzi che purtroppo con il senno di poi, che i pupazzi nella storia hanno fatto molto, ma molto male. E quindi questo era il discorso che ci interessava. Poi naturalmente c'è tutto il discorso più attuale, la voce. Noi sappiamo che sotto il ventennio c'erano tanti giornali che si chiamavano la voce, tuttora ci sono. Non dovevo più camminare nella foresta. Allora camminavo intorno al tavolo, poi mi sedevo di fronte alla finestra, prendevo il lavoro, ricamavo aspettando la sera. Ma avevo sempre più fastidio alle gambe. Me ne lamentavo tanto che mio marito decise di consultare un medico. Claude! Non è grave. Un piccolo intervento sistemerà tutto. Mio marito mi ha sorriso. Claude mi ha fatto un'iniezione. E quando mi sono svegliata mi sentivo meravigliosamente bene. I formicoli erano scomparsi. Ma non potevo più muovere le gambe. Non potevo più spostarle. Non potevo più camminare. Ha dovuto cedere i nervi. Cartellone. E adesso ci immergiamo in un'atmosfera un po' diversa, anche se è sempre difficile parlare di danza per radio, però noi cerchiamo di immaginarci questi corpi in movimento sul palcoscenico del Palladium di Roma, perché in questi giorni, iniziata ieri e finirà domenica, si sta svolgendo una rassegna di arte, di spettacolo, di teatro e di danza, Fierce Factory One, e questa sera c'è in scena la Duedel Company. Allora, Teodora Castellucci è la fondatrice di questa compagnia di danza. Che cosa portate in scena al Palladium? King King King, che è il nostro secondo lavoro che abbiamo fatto. È un lavoro che verte tutto attorno alla figura del re, del sovrano, infatti è la terza parola chiave del titolo, King, appunto. Quindi praticamente c'è un sovrano, riferimenti temporali oppure è ambientato ai giorni nostri? No, perché un sovrano... Insomma... Infatti, diciamo che ci siamo ispirati piuttosto all'idea del re, non tanto ad una immagine precisa, piuttosto a un universo che può ricordare ancora l'universo infantile per certi versi, però non si è mai cercato un'idea figurativa, piuttosto un'idea di sentimento, quindi il sentimento del sovrano, che sarebbe, cioè per noi l'abbiamo inteso soprattutto come quello malinconico, della malinconia, perché... Quindi un sovrano malinconico contornato da quanti ballerini? Siamo in scena, siamo soltanto in tre. Però è come se il lavoro si suddividesse in due parti che però sono molto unite tra loro, quindi è una differenza molto sottile, dove nella prima parte in scena c'è questa idea di sovrano, di re, che in realtà è un piccolo e fragilissimo, piccolissima figura, molto gracile, che spesso la troviamo come se stesse pensando. E la seconda parte invece è come se tutti i pensieri di questo re prendessero vita, quindi una parte che definirei anche folle per molti punti di vista, dove esseri che non c'entrano assolutamente nulla con tutto l'ambiente che è creato prendono vita e occupano la reggia. Come è più una riflessione sulla malinconia, appunto, del re, perché se ci pensiamo bene, queste persone, con i sovrani, insomma, anche se sono circondati sempre da tantissime persone che li servono e li curano e hanno attenzione per loro, quando si trovano soli sono in qualche modo ancora più soli. E quindi questo è, insomma, la solitudine del sovrano, ecco, sì. La solitudine poi potremmo dire del tiranno, se ricordiamo le cose di scuola. Sì. Allora, ricordiamo quindi al Palladium di Roma per la rassegna Fierce Factory One, una rassegna di danza e di arti di spettacolo. Abbiamo parlato con Teodora Castellucci, fondatrice della compagnia Duedel Company, che questa sera si esibisce a Roma con questo spettacolo sulla malinconia e sulla solitudine del sovrano. Grazie Teodora. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. E adesso andiamo ad Alba, sì, insomma, mangiare, bere, che cosa c'è di più buono nel nostro paese che un buon bicchiere di vino, magari rosso in questo caso. Fabio Gallo, presidente dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier, noi siamo un po' imbarazzati a parlare di Piemonte, a parlare di Vinum, la festa del vino di Alba. Insomma, i vini piemontesi sono sempre i migliori? Ma i vini piemontesi sono sicuramente tra i migliori italiani. Sono dei vini, soprattutto quelli rossi, molto importanti, di struttura, sono dei vini di forte personalità, sono dei vini che piacciono molto alla clientela sia nazionale che internazionale. Ma allora è sempre il Barolo, il Barbaresco, il vino eccezionale italiano? O un po' è cambiato? Visto, noi approfittiamo della sua presenza per fare un panorama. Ma sicuramente il Barolo e il Barbaresco sono due grandi vini italiani. Sono quelli che in Piemonte esprimono quelle caratteristiche uniche e hanno anche tra l'altro una grossa potenzialità all'invecchiamento e sono considerati appunto tra i migliori anche rossi del mondo. Quindi sono dei rossi pregiati, ovviamente di valore, sono dei vini che sono, diciamo, sono presi d'assalto un po' da tanti appassionati un po' e collezionisti in tutto il mondo. Quindi sono un po' il nostro orgoglio. Sicuramente, sicuramente. Ecco, allora che cosa accade ad Alba? Lo diciamo perché ci si incontra alle 15:30 in piazza Pertinace e poi si assaggiano i prodotti della terra con delle degustazioni di Barolo e Barbaresco, giusto? Sì, sì, non solo. Sì. Associate anche, perché vedo, della selezione dell'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei vini d'Alba, insomma associati quindi anche poi magari con qualche piatto tipico. Ci sono praticamente tre grandi zone, il Palavinum 1, 2 e 3. Al Palavinum 1 ci sono una serie di vini piemontesi in degustazione libera, al Palavinum 2 ci sono dei prodotti enogastronomici piemontesi in abbinamento a dei vini anche importanti come Barolo e Barbaresco, e poi invece al Palavinum 3 il Palavinum 3 è una grossa sala di degustazione dove abbiamo organizzato 12 grandi eventi per quelle persone che dal vino chiedono qualcosa in più, quindi persone un pochino più esperte. E lì si alterneranno delle degustazioni di Barolo, di Barbaresco, di Roero, di Barbera, di Dolcetto, quindi un appuntamento forse il più importante, quello che stuzzica di più gli appassionati al vino. Allora ringraziamo Fabio Gallo che ci ha onorato della sua presenza, presidente dell'AES, Associazione Italiana Sommelier. Abbiamo parlato dei vini piemontesi, ma noi poi la disturberemo anche per parlare degli altri vini italiani, ovviamente. E ricordiamo l'appuntamento invece ad Alba, alla festa del vino di Alba a Vinum 2010, sia questo weekend sia il prossimo. Grazie Fabio. Grazie a lei, buongiorno. Buongiorno. Mi immagino ancora con te fare l'amore nelle vigne, alla vita che bevo con te sciucchiando l'uva. Mi inchino. E adesso dal classico Barbaresco e Barolo, noi però da Alba ci spostiamo a Bologna, perché a Bologna invece è in atto un'altra festa, quella dei vignaioli eretici, sì, perché anche i vignaioli sono eretici, ed è organizzata da Gusto Nudo. Praticamente si tratta, sì, della scelta dell'agricoltura biologica. Allora noi abbiamo Matteo Gattoni, che è il presidente di Gusto Nudo, al quale vogliamo porgere una domanda un po' provocatoria, ma insomma questi vini biologici sono buoni? Perché alle volte si parla di vino biologico, però... Iniziamo con un distinguo fondamentale. Noi facciamo appunto la fiera dei vignaioli eretici perché ci concentriamo sui vignaioli innanzitutto, e sul prodotto in seconda battuta, dal momento che pensiamo che se una persona lavora bene quasi sicuramente il prodotto avrà delle caratteristiche positive. Poi c'è sempre il discorso vini biologici vuol dire che sono biologici in vigna, tante volte in cantina non hanno queste caratteristiche e i produttori ci mettono di tutto, le aziende ci mettono di tutto per rendere il vino più appetibile al mercato. Quello che noi facciamo è chiamare, come già tanti altri stanno facendo, questi vini naturali e non biologici. Quindi a Bologna che cosa si potrà degustare questo weekend? Dove vi incontrate? Vini bianchi, vini rossi? Beh, certamente non rosé, perché il rosé mi dà l'idea che non sia molto biologico. No, no, assolutamente, ci possono anche essere vini rosati. Addirittura ci sarà uno spumante brut, metodo classico, pinot nero rosato. Lì poi dipende dalle pratiche, che sono di solito pratiche meccaniche per fare un vino rosato. Comunque, vini bianchi e rossi di 60 produttori provenienti da tutta Italia, praticamente, dal Piemonte alla Sicilia. Gusto Nudo, l'appuntamento è alle 15, dalle 15 alle 21 a Vicolo Bolognetti, giusto? Esatto, che è in centro Bologna, appena dentro la cerchia dei Mille, come si chiama il centro di Bologna. Allora, e per chi vuole andare a gustare dei vini eretici, a noi ci piace questa definizione, si accoppia bene anche con il vino, che è un po' la trasgressione, e bisogna dirigere i propri passi a Bologna proprio per gustare Gusto Nudo i vini biologici. Grazie Matteo. Grazie a voi. Rose rosse, rose che non ho visto, rose belle quelle che arriveranno, rose rosse immaginate in viaggio nell'aria sulle onde del mare, rose tanto. E adesso andiamo a Brescia, colori e profumi di primavera alla Castello Quistini, l'esibizione dei roseti, addirittura bellissimi, 1500 rose, aperto tutte le domeniche d'estate, appunto proprio da questa domenica del 25 aprile. Marco Mazza, proprietario del castello e progettista dei giardini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, quante qualità di rose ci sono? Che cosa vuol dire organizzare un roseto così grande? Ma allora, la quantità esatta non la so più neanche io, nel senso che sono talmente tante che non, come varietà, che non la so più. Grosso modo siamo intorno alle 1500 varietà di piante e il giardino è organizzato a temi. Cioè in pratica ci sono vari momenti attraversando i giardini che partono dal giardino bioenergetico, passano attraverso il labirinto di rose, dal labirinto di rose si passa attraverso il giardino segreto delle ortensie, attraverso una sala ricevimenti, a questo punto il giardino all'inglese, si attraversa un salone principale e si attraversa il ponte che dà nell'altro giardino che una volta era chiamato il brolo qui dalle nostre parti, cioè il brolo era l'antico frutteto di casa per intenderci, dove adesso è stato installato un antico frutteto, un piccolo hortus, non conclusus perché non è rinchiuso come era rinchiuso una volta nei conventi, e contenente piante aromatiche e piante curative. Quanto tempo, visto che lei è il progettista di questi giardini, spende ogni giorno per far sì che tutto sia perfetto? 9 ore al giorno per tutto l'anno. 9 ore al giorno per tutto l'anno e sì. Però ovviamente il clou è in questo periodo dell'anno. Beh sì, diciamo che la fanno da padrone le rose perché sono la fioritura più appariscente, anche se in questi giorni c'è una attimo di ritardo, nel senso che stanno cominciando a fiorire le rose selvatiche, le cinesi soprattutto, queste sono già fiorite 4-5 varietà, le altre sono lì bocciolate che aspettano di ora in ora di potersi aprire. E allora dobbiamo assolutamente andare proprio al Castello Quistini a Rovato in provincia di Brescia. Grazie. Prego. Cartellone. Oriente e Occidente, Aquila e Dragone si incontrano a Palazzo Reale a Milano fino al prossimo 5 settembre nella mostra I due imperi, quello romano e quello cinese, dal II secolo a.C. al IV secolo d.C. Oltre 450 capolavori italiani e cinesi provenienti da 50 musei circa, nel tentativo di ricostruire i momenti salienti dei due imperi e di mettere in luce gli aspetti della vita quotidiana. Dopo Milano, il prossimo 6 ottobre, la mostra andrà a Roma, alla Curia del Foro Romano e al Colosseo. La parte italiana della rassegna è stata curata da Stefano De Caro, direttore generale per i beni archeologici del MIBAC. Lo ha intervistato la nostra Adriana Fracchia. Due culture a confronto, Oriente-Occidente. Come è nata l'idea di questa mostra e quali sono le cose più interessanti da vedere? La mostra nasce nell'ambito di un accordo tra lo Stato italiano e la Repubblica Popolare Cinese di scambi culturali. Noi abbiamo in questi anni intessuto rapporti molto intensi con la Cina, abbiamo contribuito al restauro per esempio della città proibita, della Grande Muraglia, dell'esercito di terracotta e di altre Xi'an. Quindi insomma c'è un intenso lavoro fatto in questi anni. E tra l'altro abbiamo anche costruito insieme con i cinesi delle mostre importanti sia in Italia sia in Cina. A un certo punto è nata l'idea di fare una mostra di confronto. Una volta a Parigi è stato realizzato il Museo dell'Uomo, il museo in cui appunto su base scientifica, strutturalistica, si confrontavano i progressi della civiltà umana nei vari continenti, presso le varie popolazioni. Era un atteggiamento appunto che nasceva nell'ambito del positivismo alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, ma che aveva una sua ragione, una sua logica fondamentale. Insomma, l'uomo è lo stesso sotto tutte le latitudini e si comporta in modi non uguali ma simili a fronte ai problemi della coltivazione, della guerra, della morte, della divinità, con gli stessi strumenti mentali. Poi li risolve in modo diverso, però diciamo le leggi del comportamento, se ne esistono, in qualche modo si possono studiare, si possono indagare. E allora farlo attraverso il confronto di due civiltà complesse che poi hanno determinato e hanno influenzato profondamente gran parte anche della storia attuale dell'umanità. Noi utilizziamo una lingua neolatina, utilizziamo il diritto romano, così come la Cina è ancora in qualche modo per continuità diretta, in quel caso la vecchia Cina, la Cina degli imperatori Han. Allora abbiamo scelto un momento che era quello della formazione della compagine statale, la parola impero naturalmente è più evocativa dal punto di vista della comunicazione, però è proprio la formazione di una struttura complessa, appunto come l'impero romano e l'impero cinese, a cominciare per l'impero romano e per l'impero cinese dal momento della tarda repubblica per Roma, della dinastia Han per l'impero cinese. Abbiamo messo a confronto dei temi, appunto il governo, lo Stato, la religione, la morte, la vita privata, verificando appunto somiglianze e differenze. Tutto questo attraverso i materiali che vengono da una ventina di musei cinesi, da almeno 4-5 musei italiani, materiali che sono importanti dal punto di vista storico-artistico, ma che soprattutto vogliono essere rappresentativi di questi temi. Quindi ci sono altari, ci sono statue sacre per quanto riguarda il tema della religione, naturalmente un po' di guerrieri, ma non tanto perché sono i guerrieri di Xi'an, ma perché sono la rappresentanza di un modo di rappresentare il potere imperiale anche nell'aldilà. Allo stesso modo ci sono delle differenze fondamentali, per esempio l'architettura cinese è un'architettura in legno e quindi non è sopravvissuto a niente, abbiamo soltanto dei modellini dei grandi palazzi cinesi, mentre invece l'architettura romana aveva superato la fase del legno, che pure ha avuto, l'ha avuta però nel momento etrusco, nel momento della protostoria e poi nel momento dell'arcaismo. Il tempio dei Tarquini, il tempio di Giove Capitolino era stato costruito in legno, quindi in una fase, come dire, cinese, solo che poi appunto si era sviluppata in pietra, marmo, terracotta e quant'altro. Invece l'architettura cinese è restata tradizionalmente, ancora oggi, quasi tutta l'architettura orientale passata direttamente dal legno al cemento armato, come dire. E quindi queste sono delle grandi differenze, per cui noi non troveremo statue in marmo nell'architettura cinese. E sono poi le cose che costituiscono i caratteri più vistosi, no? Quando uno va in Cina, va a vedere pagode di edifici in legno, le lacche, eccetera, quando i cinesi, comunque gli orientali, vengono da noi, restano stupefatti delle grandi architetture, dei palazzi rinascimentali, eccetera. Sono caratteri distintivi più evidenti, come dire. La mostra ha debuttato a Pechino, cioè, Le prime due tappe le abbiamo fatte a Pechino e a Luoyang, e ora si fa a Milano e poi a Roma. E qui appunto a Roma, come ha già ricordato lei, inaugurerà l'anno della Cina in Italia. Esatto. Quindi insomma è un altro evento importante che coincide con questa sì, mostra itinerante. Nel quadro di questi accordi noi abbiamo chiesto e ottenuto nel nuovo museo della storia cinese a Piazza Tiananmen 1000 metri quadri per esposizioni di arte e design italiano, e lo stessa cosa offriamo ai cinesi a Roma, in modo da avere continuamente manifestazioni cinesi in Italia. Insomma, un modo di fare cultura reciprocamente in maniera costruttiva. E adesso andiamo ad Udine, dove è partito ieri il Far East Film Festival al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e ci sarà fino al 1 maggio. Buongiorno Sabrina Baraccetti, l'organizzatrice di questo festival. Allora, intanto, che cosa vuol dire Far East Film Festival? È una grande carrellata di film, 72 in particolare quest'anno, che mostra quello che accade dal punto di vista produttivo e distributivo nell'altra parte del mondo, cioè l'estremo oriente. Quindi ci sono 72 titoli che arrivano da Cina, Corea, Hong Kong, Filippine, Giappone, Indonesia, Taiwan, Thailandia, soprattutto horror in questo caso, e anche il Vietnam quest'anno è rappresentato con 2 film. Quindi in particolare un focus, è un grande focus, un focus internazionale su questo tipo di produzione, quella più popolare, quella che rilegge i generi, quindi spaziamo dalle commedie brillanti fino ai thriller più estremi, fino all'horror anche o allo slasher, e mostriamo quanto di più effervescente, originale si produce in una parte del mondo che dal nostro punto di vista è sicuramente quella più interessante. Non esistono altri festival analoghi, per cui Far East da sempre è stato l'avamposto per il cinema asiatico in Europa e in Occidente, e un'altra particolarità è quella che i frequentatori appunto del nostro festival potranno incontrare anche i protagonisti di queste cinematografie, perché abbiamo moltissimi registi ma anche produttori e anche attori e attrici di questi film che mostriamo. Quindi Udine diventa il centro, no? Di questa produzione. Oltretutto anche Udine è all'est per, no? Riguardo all'Italia, e quindi accoglie invece quello che è ancora più a est. Ma quali sono i film più interessanti da vedere quest'anno, soprattutto magari per il genere commedia o anche per il genere drammatico? Beh, 2 dei film più importanti li abbiamo visti ieri sera, appunto la prima mondiale di Dream Home, che è il nuovo film firmato da Pang Ocheon, uno dei più importanti registi di Hong Kong, che più volte appunto è stato nostro ospite, la commedia brillante che poi abbiamo visto ieri sul modello delle commedie sentimentali hollywoodiane classiche, era Sophie's Revenge, diretta da una donna, interpretata da Zhang Zi, che noi conosciamo molto bene, tra la diva più nota forse in Occidente, che arriva dalla mainland China. E per quanto riguarda il programma di oggi, devo sottolineare appunto che si apre la retrospettiva dedicata ad una casa di produzione giapponese, che è la Shintoho, attiva alla fine degli anni 40 fino ai primi anni 60 e specializzata nei film di genere, per cui avremo sia dei thriller che degli erotic thriller, perché appunto la Shintoho mostrava anche una serie di volti ed è diventata nota appunto per aver lanciato quella che potremmo definire la Brigitte Bardot degli anni 50 in Giappone, che era Michiko Maeda, che appunto era molto audace da tutti i punti di vista. Insomma, sento proprio un altro universo. Noi entriamo, va ad Udine per entrare in un altro diverso. Grazie Sabrina. Ciao a voi, grazie. Far East Film Festival fino al 1 maggio. E prima di salutarci parliamo del Salone del Libro di Torino, che si tiene da giovedì 13 a lunedì 17 maggio. Radio 24 seguirà l'evento da vicino con numerosi collegamenti, con numerose iniziative, e allora ricordiamo che l'appuntamento è per tutti al Salone del Libro di Torino. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Laura Faggin in redazione. Un particolare ringraziamento va ad Emanuele Mazza. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Vi ricordo che potete di nuovo riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it. Una buona giornata e un buon weekend a tutti da Elisabetta Fiorito.